ciccio bella canorze. Quante volte ho sbagliai, quante volte ho defecai, troppe volte ho inventai parole tipo Dorfius, Morfus, Dorfi, Stoffi, Cartoffi, Nenni, Misnenni, Trofi, Sbatatoffi, e mi ritrovo qua a sclerare. Mamma aiutami tu, non so scendere le scale. Questa canzone si sclero, chiama musicale, tutta da rifare, no, censurare da e non, è da cancellare, oh, è da scartare, oh, non ti fo, ti fo, non ti forcone, la matte, mammi, da è un'opinione, conveniente a chi l'italiano lo sa come me, ne, next, ne, next, ne, next, ne, next, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Let's go.